il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Iniziamo questo nuovo anno della rubrica Il Quadrifoglio parlando di antichi mestieri. Siamo abituati forse a vederli nelle rievocazioni, magari legate a qualche manifestazione sagra tradizionale, però oggi stanno tornando di interesse per vari motivi, uno dei quali ad esempio è la crisi economica che sta portando soprattutto i giovani ad una riscoperta di lavori tradizionali e manuali. Ma anche il mondo della scuola guarda gli antichi mestieri e vi trae preziosi insegnamenti per i ragazzi e per l'educazione scolastica. Proprio alla scuola guarda il libro di cui parliamo oggi, che si intitola appunto Antichi Mestieri e del quale abbiamo in linea una delle autrici, Laura Simeoni. Benvenuta Laura. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te. Grazie anche a te. Questo libro è stato pubblicato con la collaborazione di Coldiretti Donne Imprese Veneto, la confesionato provinciale di Treviso, e però è pubblicato anche con il contributo del Ministero delle... Certamente, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e dell'Università. Ecco, infatti si dicevo che si rivolge alle scuole. Qual è il contenuto di questa pubblicazione? Ecco, il contenuto e anche il progetto che il Ministero ha voluto sostenere è quello di approcciare gli antichi mestieri, di guardarli e di studiarli da un punto di vista non nostalgico, rievocativo, come a volte si fa in alcune pubblicazioni e alcune rievocazioni, ma come qualcosa di attuale, in cui ci sono conoscenze scientifiche molto profonde, molto antiche, che magari la stessa persona, come poteva essere contadino, fabbro, famegname, non sapevano di avere. Se vuoi facciamo anche qualche esempio per rendere chiaro questo concetto. E a me aveva colpito molto nello studio e nella preparazione il mestiere del fabbro. Penso che sia affascinante per tutti perché è un mestiere antico che ricorda l'alchimia, la trasformazione, no, dei metalli. E il fabbro lavorava e lavora ancora adesso all'oscurità, al buio. E perché questo? Perché il fabbro sapeva riconoscere esattamente dal colore della fiamma che tipo di fuoco aveva di fronte, perché la fiamma cambia colore, quindi passa dal rosso al bianco, rosso arancione, giallo bianco. A seconda del colore sapeva che il ferro era pronto per essere battuto, per essere modellato. Quando raggiungeva la fiamma il colore arancione, il fabbro sapeva che poteva intervenire. Ecco, questa è una conoscenza molto profonda e molto antica che veniva tramandata di generazione in generazione. Il fabbro non sapeva di averla la conoscenza, la faceva e basta, era l'imparare facendo, no? Copiando, imitando. Adesso abbiamo strumenti sofisticati, abbiamo dei termometri, anche apparecchiature tecnologiche, ipertecnologiche, ma in realtà il fabbro potrebbe lavorare anche senza, ancora oggi. E questo può essere affascinante per i bambini, a parte la magia della fiamma. Ma capire questo, capire che ancora oggi si può lavorare come migliaia e migliaia di anni fa, addirittura nelle piramidi abbiamo trovato degli esempi di spade forgiate, di metalli forgiati in una maniera artistica straordinaria, che gli artigiani adesso riprendono, perché è un mestiere che non è caduto in disuso, potrebbe essere anche una possibilità di lavoro per molti giovani in questo periodo storico. Ecco, tu mi dicevi che questo libro è già stato distribuito in molte scuole del Trevigiano, sarà distribuito anche a livello regionale. Come viene utilizzato? Cioè, verranno fatti dei laboratori, vengono fatte dagli insegnanti delle iniziative poi che si basano su questo testo per fare delle iniziative con i ragazzi? Certo, allora il progetto è costituito dal libro che serve di supporto ai docenti e agli insegnanti nelle scuole medie, soprattutto di tecnologia e educazione tecnica, la vecchia educazione tecnica e oggi tecnologia, e poi abbinato al testo c'è anche la possibilità di usufruire di alcuni laboratori. Per questo ci sono i professionisti della diretti, gli artigiani della Confartigianato che sono a disposizione. Il coordinamento di tutto questo progetto è a cura di SARMED, della Scuola Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia, che non fa solo illustrazione, perché questo libro è illustrato dai corsisti di SARMED, ma anche fa da supporto per i laboratori. Prima di Natale, prima di Capodanno, ci sono stati dei laboratori molto frequentati dai bambini, hanno visto il fabbro al lavoro, hanno sentito il contadino che spiegava perché si deve mettere a riposo il campo, cosa succede dentro la terra, che è una creatura viva, non è una cosa morta. Ecco, e i bambini sono affascinati dalla lettura, ma dal disegno e soprattutto dal colloquio con queste persone che sanno raccontare anche in maniera molto coinvolgente. Ecco, dicevo che sono 500 già le copie distribuite nelle scuole in provincia di Treviso, però adesso si amplierà anche al Veneto. Ecco, se qualcuno volesse avere questo testo, lo si può ancora recuperare? Ecco, sì, si può recuperare, però dicevo che è un progetto ministeriale, quindi è SARMED che si occupa adesso della distribuzione, perché è fatta soprattutto attraverso le scuole. Quindi basta contattare la Scuola Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia di SARMED in provincia di Treviso, c'è il sito dove ci sono tutte le informazioni, oppure se c'è qualche invece singola persona che è interessata può contattare l'editore De Bastiani di Vittorio Veneto, che ha stampato questo lavoro. Facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Di avere a disposizione almeno le prime ore del pomeriggio e passeggiare, sta tutto nel tuo quasi astratto abituale dosaggio, nelle cure che rivolge al cane, non rimane che lasciarti fare. È così che immaginavo noi da grandi, che tra miliardi e più di sguardi, eroi, vertigini, promesse, abbracci, quanto tempo a farci di carezze. E quale inciampa al cuore fosse allora per me, non sai quel guardarti rimanere, come stare buon fiore sotto la neve. Buon compleanno, bellissimo amore, riuscissi soltanto a spiegarlo a parole, il tanto che danno le singole ore d'estate passate con te. Che cosa sono fatte tutte le emozioni e dove piano aspettano distratte? Che una scusa di bufero terremoto, le sprigioni da quell'angolo remoto di ogni stupida paura. Così accade negli incontri casuali, che due amanti chiusi come chiuso il pugno dei più soli si ritrovino le braccia come ali. Che il destino consapevolmente faccia verità di un sogno dove sboccia un fiore sopra la neve. Buon compleanno, bellissimo amore, riuscissi soltanto a spiegarlo a parole, il tanto che danno le singole ore d'autunno passate con te. Buon compleanno, se tra mille di questi ci troveranno i resti uniti in eterno, non erano soldati, le stelle diranno, ma due semplici innamorati. Penso a chi non ha più senno e meraviglia di questa nostra condizione di animali strani, che qualsiasi cenno verso battito di cuore o ciglia sempre si dimostrano praticamente uguali. Soltanto a spiegarlo. a parole, tanto che danno le singole ore d'inverno passate con te. Buon compleanno, se tra mille di questi ci troveranno i resti uniti d'eterno, non erano soldati né stelle di rame, ma due semplici innamorati. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di antichi mestieri, lo stiamo facendo con Laura Simeoni, curatrice di un libro appunto Antichi Mestieri, realizzato per conto del Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Coldiretti, Donna Impresa e Confartigianato di Treviso. E, quali sono i mestieri di cui trattate nel libro? Abbiamo parlato molto del fabbro, ma quelli, un po' anche del contadino. Quali sono gli altri mestieri che sono anche utili poi per una conoscenza che viene tramandata ai nostri ragazzi? Certo, allora il falegname è un altro antico mestiere ben praticato oggi, perché basta vedere quando si è in difficoltà in casa per avere un falegname, quanto si deve aspettare, quindi ecco un appello ai ragazzini, pensateci bene. Poi ci sono lavori come la lavandaia o il carbonaio, che non sono più lavori praticati. La lavandaia ormai, insomma, si sa che le lavatrici fanno di tutto e di più, però anche in questo lavoro noi cerchiamo di spiegare ai ragazzi come l'antico mestiere si può unire all'ecologia, perché ci sono forme di detersivo o anche di fattori pulenti che sono molto naturali, che venivano usati una volta nelle nostre case, nelle nostre campagne, perché non c'era altro, ma che adesso in tempo anche di crisi e di rispetto comunque per la natura possono essere riproposti. Quindi c'è anche qualche consiglio per le massaie. Abbiamo il vasaio, che è anche un punto, questo è un lavoro molto affascinante. Il tipografo, abbiamo inserito il tipografo perché è legato proprio alla magia della parola, anche per far capire ai ragazzi come nasce un libro, come si faceva prima che nascesse un libro, e anche questo ha la possibilità di avere collegamenti con la tipoteca di Cornuda per laboratori e anche visite guidate, dove ci sono gli antichi torchi. E sempre a Sarmede c'è stato un tipografo che ha fatto vedere con un torchio ai bambini come si imprimono le singole lettere, come si faceva una volta, scegliendo proprio le la A, la B, la C per formare le parole. Lettera. Esatto. Senti, esatto. Cioè, sono molto disponibili questi artigiani a raccontare un po' il loro lavoro ai ragazzi? Esattamente, sono molto disponibili e i ragazzi sono molto curiosi, anche perché più che il sapere, a loro interessa il fare, o comunque poter sperimentare, dato che adesso i bambini, i ragazzi hanno scarsa possibilità di mettersi in gioco manualmente, no? Sono sempre legati agli supporti elettronici, alla televisione, agli schermi, e si divertono tantissimo quando possono fare. Ecco, ma avete incontrato, ci sono anche dei giovani che voi sappiate, perché no, questi, tornano questi antichi mestieri, sì, e certo, quindi possono, certo. Sì. Perché è anche può essere anche molto interessante per un ragazzino trovare un giovane che magari fa un lavoro che sembra una cosa veramente di una volta, ma magari ci sono anche dei giovani che stanno tornando a quell'impiego. Certo, soprattutto con Coldiretti, che fa delle animazioni legate appunto a questo libro e delle dimostrazioni, c'è la possibilità per i ragazzi di vedere i loro coetanei che fanno il formaggio, che fanno i casari o i norcini, quindi si occupano della macellazione dei maiali, i norcini, non i Los Masadores, soprannominati i norcini, ecco un altro tipo di mestiere, tanto per fare una battuta. E quindi c'è la possibilità anche, contattandola con Coldiretti, di poter entrare in contatto direttamente con questi giovani che stanno riprendendo in mano mestieri antichi. Abbiamo visto anche a livello nazionale, poco prima delle feste, la consegna dell'Oscar Green ai ragazzi. Ci sono giovani che si stanno veramente spendendo e stanno mettendo in gioco con la terra e con mestieri antichi legati alla terra. Ecco, vi sarà una nuova edizione ampliata poi di questo libro, o il progetto è già terminato qui? Eh no, noi speriamo, perché abbiamo dovuto scegliere 8 mestieri e ce ne sono tantissimi, e si parlava proprio poco tempo fa con il dirigente Coldiretti, sarebbe bello dare spazio anche ad altri. Tra l'altro mi sono dimenticata il mestiere più importante di tutti, ovvero la casalinga, che è la somma dei mestieri, l'abbiamo inserito come ottavo mestiere, è la somma di tutti, perché una volta la donna faceva veramente di tutto e di più a casa. E forse oggi, forse anche, lavorando anche fuori, fa ancora di più. Certo, bravo. Ti ringraziamo Laura, e allora grazie per questo flash sugli antichi mestieri, speriamo che ci siano anche un'edizione aggiornata di cui magari torneremo a parlare. Certamente, grazie a voi, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Prima di chiudere anche questa trasmissione passiamo ad alcune notizie. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato definitivamente lunedì 16 dicembre a Bruxelles la riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020. Il regolamento sui pagamenti diretti, cuore della riforma, è stato approvato all'unanimità, così come quelli sulla regolazione trasversale, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. La maggioranza delle nuove norme entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015. Sempre in tema di Europa, la Corte di Giustizia ha annullato l'autorizzazione della Commissione al commercio della patata geneticamente modificata Amflora chiesta dalla BASF per mezzo di una sua controllata, in quanto sono state violate le norme procedurali che regolano l'introduzione degli OGM nel territorio dell'Unione. La Commissione europea ha dato anche il via libera alla regolamentazione sulla trasparenza delle informazioni in etichetta per gli oli di oliva, con il quale sarà possibile verificare con maggiore facilità nella parte frontale della bottiglia le caratteristiche dell'olio e la sua origine. I consumatori potranno così conoscere da subito la provenienza del prodotto che stanno acquistando. Il nuovo regolamento si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014. Sempre in tema di olio di oliva, la Commissione ha anche assicurato che, per le bottiglie di olio di oliva destinate alla ristorazione, gli Stati membri possono stabilire norme a livello nazionale che dispongano l'uso obbligatorio di sistemi di chiusura che ne impediscano il riempimento dopo l'esaurimento del contenuto, e che pertanto una volta aperte non saranno più riutilizzabili. Sempre il 16 dicembre importanti novità per il pane sono state introdotte invece dalla nuova legge regionale veneta approvata dal Consiglio regionale. Un registro, un marchio di qualità e l'obbligo di indicare la provenienza permetteranno di distinguere tra pane industriale e pane artigianale. Il pane fresco sarà etichettato per riconoscerlo da quello riscaldato nel punto vendita. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.